Stamattina intorno alle 10 siamo andati nella zona di Khan Yunis, a sud di Gaza, precisamente nei campi a fianco a Qutà, che è un paesino a ridosso della buffer zone. Siamo andati lì perché avevamo aiutato i contadini a mietere i campi nella settimana scorsa, e c'erano stati degli spari, c'erano stati dei feriti la settimana prima che arrivassimo noi, ma durante i nostri accompagnamenti insieme agli SM non era successo nulla. Ieri ci è arrivata poi la notizia che avevano distrutto la parte che era restata da mietere di questi campi, e quindi abbiamo deciso, insomma, di andare a supportare oggi, insomma, più che altro a documentare cosa stava succedendo. Quando siamo arrivati, insieme agli attivisti di SM, abbiamo visto i primi tank, ci hanno detto che ce n'erano 15, noi ne abbiamo visti un po' meno perché erano abbastanza lontani. E comunque, insomma, questi tank sparavano contro un altro gruppo di ISM e contadini che stavano a occhio e croce a 300 metri da noi, sempre sui campi. Abbiamo provato ad avvicinarci per documentare questa cosa, e a un certo punto, mentre i tank se ne andavano, evidentemente hanno visto che c'eravamo noi, che comunque eravamo visibilissimi perché i giubbotti fluorescenti che usa ISM, quindi sapevano perfettamente che eravamo internazionali. Appena hanno visto che eravamo lì, hanno sparato nella nostra direzione, e a quel punto quindi noi siamo tornati verso diciamo, il paesino. Siamo stati inseguiti da penso 2 o 3 elicotteri, forse di più, non lo so. Noi comunque continuavamo ad andare a passo spedito verso il paesino, hanno cominciato a spararci, a sparare nella direzione nostra. Spari abbastanza d'avvertimento, nel senso che erano vicini ma non tanto da prenderci, ma sicuramente se noi ci fossimo fermati saremmo diventati un target sicuro. Questo per dire che in realtà, insomma, gli israeliani, ecco, non è che sparano contro terroristi o contro gente che sconfina la buffer zone, ma sparano a caso e anche internazionali, quindi non hanno un target preciso. Chiunque possa essere testimone di quello che fanno viene sparato. Noi siamo riusciti comunque a correre e ad arrivare al riparo, e gli elicotteri se ne sono andati. C'è da dire che ieri, appunto, quando distruggevano i campi di questi contadini, hanno sparato in direzione del paesino, Qutà, e hanno ferito gravemente una persona. Ora, questa persona non era sui campi, era a casa sua, solo che ha la sfortuna di stare in una casa, insomma, abbastanza coperta, una delle ultime case che dà sui campi, e essendo che questi tank, insomma, anche dalle torrette sparano a una gettata di 3 km, quando sparano in direzione del paese prendono un po' quello che capita, prendono la gente che sta a casa sua a farsi affari suoi, prendono i bambini che stanno nell'asilo, insomma, prendono qualsiasi persona possa essere nel paese in quel momento. Addirittura abbiamo visto, filmato in questi giorni, hanno dovuto mettere dei muri molto alti, simili a quelli che usano gli israeliani per delimitare il confine, hanno dovuto metterli sulla strada per evitare, insomma, che gli spari arrivassero diretti a chi passeggiava per strada nel suo paese. Cioè, insomma, siamo alla follia, non ci sono altre parole. Ora noi stiamo tutti bene, nessuno oggi è stato ferito, né dei DSM né dei contadini, almeno per il momento queste sono le notizie, però ecco, questi stanno continuando a distruggere i campi, e evidentemente non gli è andata bene che la settimana scorsa questi contadini siano riusciti a mietere bene, perché la settimana scorsa c'è stata delle giornate dell'indipendenza israeliana, che fa un po' ridere, quindi loro hanno avuto le ferie, diciamo, e i contadini in quei giorni sono riusciti a mietere abbastanza i loro campi. Abbiamo visto addirittura delle famiglie riuscire a finire il loro campo. Questa roba gli ha rosicato il culo e hanno deciso oggi ieri di cominciare a distruggere quello che era rimasto. Questo significa che alcune famiglie quest'anno non potranno fare il loro pane e non potranno mangiare. questo è un danno economico notevole.